Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, sapete che cosa vuol dire erogare fino a 100.000 microgocce in un secondo? 100.000 microgocce in un secondo. Ecco, vuol dire fare della meccanica di altissima precisione, della meccanica che confina con l'orologeria specializzata manuale, e quindi vuol dire fare enorme valore aggiunto. Adesso vi do una notizia. L'Italia non è, come si dice, un paese di cuochi, non è un paese di ristoranti e non è neanche un paese di moda, anche se queste cose sono quelle che sui media prevalgono perché sono le più facili da narrare. L'Italia si regge sulla manifattura e sulla meccanica in particolare. La meccanica è la spina dorsale del sistema produttivo italiano e anche dell'economia italiana, e anche la parte più grande che c'è nelle esportazioni. Questa cosa, secondo me, va sottolineata. La nostra parola d'ordine in questa trasmissione sarà sempre, per tutte le puntate, industria, industria, industria, meccanica, meccanica, meccanica. Ma torniamo alle 100.000 gocce al secondo, che sono una cosa pazzesca. Queste macchine, che sono delle micropompe, le fa un'azienda lombarda che si chiama Fluidotech. Abbiamo qui come ospite, per parlare della sua storia aziendale ma anche della meccanica italiana, l'ingegner Andreis, che è amministratore delegato della Fluidotech. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Allora, ma come si fa a fare 100.000 gocce al secondo? Molto affascinante. Intanto grazie per questa introduzione sulla meccanica, perché è un entusiasmo che condividiamo ed un ruolo che effettivamente la meccanica per questo paese, che a molti è spesso sconosciuto. Per ritornare subito sulla domanda, noi ci siamo specializzati nel fare meccanica di alta precisione, meccanica fine, sin da quando l'azienda fu fondata da mio nonno, poi mio padre col primo prodotto, e oggi ci concentriamo nel fare prodotti che sono molto complessi da fare, ed esserci specializzati in questo e continuando ad investire tutto. Quanto investite in ricerca e sviluppo? 6-7% sul fatturato ogni anno e in crescendo. Ecco, il fatturato di questa azienda è stato in fortissima crescita. Quest'anno è aumentato del 30%, dovrebbe posizionarsi sui 60 milioni di euro, e l'anno scorso del 26%. Ma quello che è interessante sono i margini. La Fluidotech ha un EBITDA del 18-19%. Con una posizione finanziaria netta in nero, cioè non ci sono cassa meno debiti, da una cifra positiva. Questo per dire il valore che la meccanica e l'industria può avere nel sistema paese. Tra l'altro voi siete cresciuti molto perché fate anche delle micropompe che vengono utilizzate per abbattere le emissioni dei motori diesel. Sì, assolutamente. Questo mercato in cui ci siamo buttati nel 2005-2006, di cui abbiamo iniziato a vedere i primi risultati soltanto nel 2013, per cui visione di grande periodo, grandissimi investimenti in tecnologia, e questo è il mercato che ci ha fatto fare la crescita, il 60% di questa crescita che le descriveva l'anno scorso, quest'anno, e che su cui puntiamo molto per la crescita dei prossimi anni. Ma sono le pompe che servono per abbattere le emissioni dei motori Volkswagen? Mettiamole in questo senso, diciamo che è la tecnologia che risolve il problema Volkswagen, è la tecnologia che si chiama SCR, e di fatto si tratta di iniettare acqua ed ammoniaca sui gas di scarico dei motori diesel, quindi monossidi e biossidi di azoto, si trasforma quindi in azoto e acqua, quindi abbatte di più del 95%. Ma insomma, la questione Volkswagen allora vi ha aiutati? In un qualche modo farà aumentare i volumi che noi prevediamo per l'anno prossimo, che erano già comunque molto elevati, per cui saremmo stati bene anche senza la questione Volkswagen. Questo sicuramente ci darà qualche colpetto in più. Benissimo, il tempo è tiranno, adesso dobbiamo mandare in onda la pubblicità e gli avvisi sul traffico. Restate con noi, non cambiate canale. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Fabbrica 2.4. È Ecco, siamo di nuovo in linea. Stavamo parlando in questa puntata di meccanica, dell'eccellenza meccanica italiana, che è rappresentata dall'azienda che abbiamo in studio, che si chiama Fluidotech, che fa queste micropompe che hanno applicazioni nel beverage, nell'automotive, nel medicale, in un sacco di settori. Micropompe che possono fare perfino 100.000 gocce in un secondo, una roba pazzesca. Ecco, ma tra l'altro sono anche quelle che vengono usate per fare le scritte sulle uova, no? Di fatto il nostro, in qualche modo, come abbiamo anche recentemente in una campagna di comunicazione che abbiamo vinto, in qualche modo il nostro prodotto è sempre al cuore delle macchine dei nostri clienti, perché in qualche modo da vita le macchine dei nostri clienti in questo caso sono macchine a stampa getto d'inchiostro industriale che stampano sulle uova, stampano sulle lattine, stampano su cavi elettrici, su tutti i prodotti che devono essere identificati e tracciati. Girano appunto dalle 60.000 alle 100.000 gocce al secondo, che vengono elettrificate, magnetizzate e deflesse per andare a scrivere. Ecco, voi investite 6-7% del vostro fatturato ricerca e sviluppo, questo per la ricerca interna. Poi lei mi diceva che ha creato un centro di ricerca separato e societarizzato che si chiama F-Lab e che fa ricerca e scouting di tecnologie nell'università su tutte le cose che non sono direttamente legate alle micropompe, ma che sono connesse ad altri settori con i quali ci può essere un'integrazione commerciale. Ecco, me lo racconta questo F-Lab? Sì, noi appunto investiamo moltissimo su ricerca e sviluppo e su quello che in qualche modo è il nostro core e su quale vogliamo continuare a investire. Ci siamo resi conto qualche anno fa che avevamo diverse opportunità che ci sarebbe piaciuto poter cavalcare e che però avevamo bisogno di competenze e di una multidisciplinarietà che non riuscivamo a coltivare all'interno dell'azienda. Per cui abbiamo lanciato questo laboratorio di innovazione, dove lavorano un gruppo appunto multidisciplinare di persone, un po' secondo il modello dell'innovazione aperta, per cui un piccolo gruppo di persone all'interno, molto hub all'interno di una rete in cui ci sono attori di eccellenza, di cui le 5 università di Milano, ci sono centri di ricerca, società. Quanto esperti. Avete investito in questo F-Lab? Per il momento si tratta, all'interno dell'F-Lab, si tratta di investimenti in persone e in collaborazioni con l'esterno. Probabilmente nel giro di 3 anni avremo investito circa 1,5-2 milioni di euro. Al termine di 1,5 anni erano stati depositati 6 brevetti e lanciato il primo spin-off industriale, che oggi è già un'azienda. Abbiamo presentato in Europa, in 4 fiere internazionali in Europa, una tecnologia che dal nostro punto di vista è fantastico, che utilizza e sfrutta l'effetto dei metalli a memoria di forma per sviluppare valvole che anche in questo caso riescono a proporzionare con una grandissima accuratezza fluidi per una svariata E quanta parte del vostro fatturato deriva dall'esportazione? Quest'anno penso che chiuderemo intorno all'80% e comunque sarà un crescendo. Tra l'altro voi fate esportazione ma non delocalizzazione, anche perché i vostri prodotti sono talmente piccoli che non c'è nessun motivo di andare a produrre in Cina o in Thailandia. Sì, corretto, nel senso che per esempio guardando l'ultima linea dell'automotive non c'è più neanche una persona che tocca questo componente, ma ci sono tante persone che governano quindi la complessità del sistema e la complessità della macchina, per cui la manodopera diretta diventa molto poca, diventa molto più la manodopera di gestione, e qui ci si aggancia al tema di quanto siano importanti le competenze sempre più specializzate, cosa che non è così facile trovare oggi a Milano e in Lombardia. Questo apre un altro grande tema. Ecco, la meccanica rappresenta, come ho detto nella prima parte della puntata, proprio il cuore dell'industria italiana, il cuore dell'economia italiana e il cuore delle esportazioni italiane. Sui numeri della meccanica, ecco una scheda che ho preparato. Si tende a credere che il punto di forza dell'economia italiana sia costituito dai settori più popolari del Made in Italy, soprattutto all'estero: moda, lusso, food, ristorazione, turismo. Invece l'Italia è soprattutto un paese manifatturiero e industriale. La sua spina dorsale è rappresentata da settori come meccanica, metalmeccanica ed elettronica, componentistica auto, chimica e farmaceutica. In particolare il settore metalmeccanico, con circa 400 miliardi di fatturato, contribuisce per oltre il 7% al PIL del paese e per quasi la metà alla ricchezza prodotta dall'intero manifatturiero. Dà lavoro a 1.650.000 persone. Il solo sottocomparto dell'impiantistica, con 45 miliardi di fatturato, dà lavoro a circa 450.000 addetti. Il metalmeccanico italiano vende all'estero per oltre 190 miliardi di euro, la metà dell'intero export del paese. Nel 2014 il suo attivo ha raggiunto quota 65 miliardi di euro, ovvero più dei due terzi dell'intero surplus manifatturiero italiano. Un contributo determinante al mantenimento dell'equilibrio dei conti con l'estero, altrimenti deficitari. Negli anni recenti, il settore metalmeccanico è stato colpito duramente dalla crisi. A soffrire sono state soprattutto le attività industriali di modesta dimensione o di ridotto valore aggiunto tecnologico. Nel 2014 rispetto al 2007 si è perso circa un terzo della produzione metalmeccanica e un quarto della capacità produttiva. Il valore aggiunto a prezzi costanti è sceso da 120 a 98 miliardi. È crollata la domanda interna per beni di investimento in macchine, attrezzature e mezzi di trasporto, meno 29,7%, così come la domanda di beni di consumo durevoli, meno 7,7%, prodotti soprattutto da industrie metalmeccaniche. Questo calo è stato di gran lunga superiore alla media europea, dove rispetto al nostro 29,4% si è attestato al 9,4%. In Francia i volumi si sono ridotti del 19,8% e nel Regno Unito del 2,7%. In Germania sono invece cresciuti del 4,3%. Rieccoci in linea con l'ingegnere Diego Andreis, che è l'amministratore delegato della Fluidotech. Per chi si stesse collegando ora, spiego che stiamo parlando della meccanica fine italiana, del suo valore aggiunto e di queste aziende che fanno delle cose ad altissimo valore aggiunto, quindi con alti margini, e che consentono la sopravvivenza dell'economia italiana e anche della meccanica italiana, la quale, come non ci stancheremo mai di dire, resta al cuore della nostra economia, delle nostre esportazioni, ma nonostante questo negli ultimi anni ha sofferto, non il settore. Il settore italiano ha sofferto in modo molto importante. Rispetto al 2007 abbiamo perso circa un terzo della produzione metalmeccanica, un quarto della capacità produttiva e la ricchezza prodotta misurata con valore aggiunto a prezzi costanti è crollata dai circa 120 miliardi di euro agli attuali 98. Ma perché è avvenuto questo? Le ragioni sono molteplici e diverse. Sicuramente la componente della crisi ha contribuito. Noi che cosa abbiamo fatto forse in qualche modo di diverso? Sicuramente è stato negli anni una gestione patrimoniale molto attenta e un reinvestimento continuo di tutte. Quante le persone lavorano da voi? 200 persone oggi qui a Milano. E quante assunzioni avete fatto nel 2015? Probabilmente almeno il 7-8% della manodopera. E se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse mandarle il curriculum, chi dovrebbe essere? Come tipo di persona, di formazione? Chi cercate voi? Noi oggi cerchiamo ingegneri o periti tecnici a specializzazione elevata, per esempio quelli che oggi escono dall'Istituto Tecnico Superiore della Meccatronica, che tra l'altro abbiamo partecipato come Fluidotech a fondare proprio l'anno scorso. E quanti prevedete di assumerne? Siamo in forte crescita, per cui per l'anno prossimo prevediamo un'ulteriore crescita del 20-30%, e per cui se troviamo competenze, noi le posizioni degli ingegneri, dei periti tecnici specializzati sono sempre aperte, siamo in continua assunzione. Ecco, allora mi raccomando, adesso mi odierà, mandate tutti il curriculum all'ingegner Diego Andreis, non dico l'indirizzo, cercatevelo su internet, comunque in Lombardia, curriculum. Ma quali sono le difficoltà maggiori con le quali un'azienda così è chiamata a misurarsi? Allora, guardando al fare impresa in Italia in generale, uno dei temi per me principali è la semplificazione, per cui la difficoltà del fare impresa. Semplificazione in che senso? Gli adempimenti. Recentemente è stata fatta una ricerca dove sulla piccola e media impresa sembra che il costo degli adempimenti burocratici sia pari al 4% del fatturato di un'impresa. Quindi questo è sicuramente un tema. Il discorso della politica fiscale, della parte fiscale, anche qui pochi giorni, total tax rate è uscito un dato 64%, ancora in fondo alla classifica europea. Non è tanto poi ancora la quantità di tasse, ma poi il problema sul ritorno che le imprese hanno di queste tasse in termini di servizi e in termini di infrastruttura. E poi ovviamente sempre il tema della politica industriale, per cui fare scelte per questo paese. Fare scelte non si fanno, la politica industriale è uno dei nostri cavalli di battaglia. Torniamo un attimo a questi 6-7 brevetti che avete depositato, che sono legati a una cosa che è molto affascinante, i metalli a memoria di forma. Che cosa sono? Sono delle leghe nickel-titanio che vengono realizzate in termini di fili o di molli che, se energizzate, quindi riscaldate, facendo passare una corrente piuttosto che immersi in un fluido a una certa temperatura, esprimono una certa forza. Quindi nel nostro caso abbiamo utilizzato queste caratteristiche, oserei dire magiche, almeno quando ci si approccia a questo tipo di materiali, per sostituire l'utilizzo dei solenoidi all'interno di valvole e in applicazioni specifiche. Comunque si diceva del settore pubblico, però il settore pubblico è quello che mantiene le università, che, con le quali voi avete un rapporto importante, quindi magari le tasse a qualcosa servono. Le tasse sono fondamentali in un paese, in un paese al nord Europa si pagano delle tasse importanti e queste tasse ritornano appunto in servizi, infrastrutture. Sull'università per me è fondamentale il rapporto con l'università, è una cosa che negli ultimi anni abbiamo coltivato tantissimo e che ci sta dando davvero tanto valore. Ovviamente nel rapporto con l'università bisogna avere anche lì una visione di lungo periodo, per cui è un investimento che guarda al futuro l'università. Ma infatti la politica industriale moderna fatta dai paesi come la Germania e gli Stati Uniti, che io nel corso di questa trasmissione non mi stancherò mai di ricordare, è fatta soprattutto attraverso un sostegno pubblico all'università, che penso che anche secondo lei è quello che ci vorrebbe. Noi spendiamo l'1% in ricerca, la Germania spende il 3%. Assolutamente, è fondamentale l'investimento all'interno del sistema universitario, la razionalizzazione. Ovviamente bisogna investire in università rendendole chiaramente efficienti e capaci di collaborare non soltanto con la grande impresa, che in questo nostro paese ovviamente ne ha sempre meno, ma deve essere sempre più un'università e una ricerca che è in grado di lavorare e collaborare con la piccola e media. Benissimo, la puntata volge al termine, ringraziamo l'ingegner Diego Andreis. Grazie e arrivederci a sabato prossimo.